Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Continuano gli appuntamenti settimanali con l'Adico, quindi saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, nei numerosi appuntamenti che abbiamo insieme all'Adico, nelle numerose cose che raccontiamo, già una volta abbiamo parlato di un caso che riguarda i pannelli fotovoltaici di un signore che insomma gli era stato promesso un certo utilizzo dei suoi pannelli, per i quali aveva speso di decine di migliaia di euro, e poi insomma le cose non sono andate proprio come era stato stabilito inizialmente. Anche oggi tocchiamo questo argomento dei pannelli fotovoltaici. Sì Francesco, tra l'altro parliamo di pannelli fotovoltaici, parliamo di un problema e parliamo purtroppo della stessa ditta. È la seconda volta che ci troviamo ad affrontare con te insomma un problema legato all'azienda Green Power, con sede appunto a Milano, nel veneziano, e per cui insomma a questo punto diciamo anche che è un'azienda nei confronti della quale cerchiamo anche di mettere un po' in guardia le persone, perché insomma noi abbiamo avuto delle esperienze negative, in particolare quella del signor Pierpaolo Pintus, che è nostro socio della Sardegna, che ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di questo impianto fotovoltaico a giugno 2015, quindi stiamo parlando praticamente di un anno fa. È un impianto del valore di circa 16.000 euro, è stato sottoscritto dopo che un funzionario di questa Green Power si è presentato a casa, ha fatto intendere di essere un gruppo legato ad Enel, perché effettivamente esiste un gruppo che si chiama Enel Green Power, ma non c'entra con questo, e niente, praticamente l'ha convinto a sottoscrivere appunto un contratto per avere questo bel impianto di fotovoltaico con anche una bella produzione di energia. Succede che però insomma a distanza di qualche mese questo signor Pintus non ha visto nessun tecnico, nessun sopralluogo, niente di niente, ha cominciato a sollecitare appunto qualche intervento, e l'intervento è arrivato, nel senso che il tecnico si è presentato per un sopralluogo e ha chiesto soprattutto un anticipo, un acconto che poi corrisponde esattamente a metà dell'importo dovuto, quindi attorno agli 8.000 euro, esattamente 7.800 euro. Però il problema qual è? Che ad oggi il signor Pintus non ha ancora un impianto fotovoltaico, quindi ha sborsato quasi 8.000 euro, ha un contratto da 15.800 euro, però l'impianto fotovoltaico non l'ha ancora visto. Chiaramente ha provato in più occasioni a contattare l'azienda, ha anche trovata, l'azienda ha assicurato di aver presentato anche un piano paesaggistico, di averlo presentato al comune in questione, che è un comune sardo. Fatto sta che a un certo punto questa persona ha cominciato a scrivere ed ha scritto ad Enel, convintissimo che si trattasse di una ditta legata ad Enel, per poi scoprire in realtà che appunto aveva fatto un contratto con una ditta di Milano, con un'azienda veneziana, per la quale non è che vogliamo criticare il fatto di essere di Milano, ma critichiamo sicuramente il fatto di non mantenere evidentemente degli impegni presi dopo aver anche ricevuto dall'utente quasi 8.000 euro, quindi una cifra consistente. Per questo insomma il signor Pintus ha deciso di rivolgersi a noi. E quindi adesso vi state muovendo con la parte burocratica in questo caso per venire ad avere restituito il denaro. Allora, o riusciamo a far sì che finalmente Green Power installi l'impianto fotovoltaico, anche se chiaramente stiamo parlando di una persona che si è un po' stufata ovviamente di avere rapporti con questa azienda, se no quantomeno insomma è necessario che vengano restituiti i soldi indietro a questa persona, e abbiamo fiducia insomma che qualcosa si muova, anche se come abbiamo già avuto modo di dire è la seconda esperienza di un certo tipo che abbiamo con questa azienda, l'altra l'abbiamo sempre raccontata chiaramente nella tua trasmissione, e per cui insomma noi speriamo che si risolva la situazione. Diciamo questo però in più: questo è il periodo in cui ovviamente il fotovoltaico ha l'utilizzo maggiore, anche diciamo che negli ultimi anni ha avuto un grosso appeal, e noi siamo assolutamente favorevoli tra l'altro a questo tipo di energie, come alle energie rinnovabili. Consigliamo però vivamente, quando ci si impegna in una cosa così onerosa, ad affidarsi insomma il più possibile a ditte che abbiano una esperienza nel campo, a ditte affidabili, perché purtroppo, Francesco, abbiamo notato che in questo settore, da quando diciamo c'è stato lo sviluppo, un forte sviluppo anche favorito dagli incentivi, diciamo che sul mercato si sono proposte molte aziende anche che non hanno certo esperienza nel settore, quindi molto improvvisate. Quindi mi raccomando, il fotovoltaico è sicuramente una cosa molto utile, noi la promuoviamo ampiamente, però mi raccomando di affidarsi ad aziende serie. Esatto, anche perché magari si può rischiare di ritrovarsi con la casa che va a fuoco o quant'altro, insomma sono cose importanti. Mi viene in mente che la settimana scorsa è addirittura sparito da un campo una serie di pannelli, più di 300 pannelli fotovoltaici, quindi è un prodotto che va a ruba. Che va a ruba, esattamente, come si suol dire. Quindi ecco, noi ci teniamo a dire questo, Francesco, noi non ce l'abbiamo assolutamente col fotovoltaico, ci mancherebbe altro, insomma, anzi per noi è importante che ci sia un forte sviluppo delle energie alternative rinnovabili. Mi raccomando però veramente, perché è una spesa impegnativa che dopo produce i suoi effetti, certo. È un investimento molto utile, ma mi raccomando, affidiamoci ad aziende serie. Quindi per le energie alternative cerchiamo anche ditte alternative e cerchiamo quelle che possono evidentemente soddisfare i nostri bisogni. Grazie all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, grazie a te Gianluca, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.